Oggi sento come gli anni 80. Come con la musica Il Ballo del Mattone. Andiamo e andiamo. Uia. No, senza uia ti vogliamo. Uia. Pensa tu, sto schiacciando il microfono col piede. Ma che fai, arrivi? Cosa ne butti in terra, ne butto? No, sul tavolo, solo che ho i piedi, uno sopra la sedia e uno sul tavolo, per potermi passare questi dolori, grazie che ciò che sono tremendi. Andiamo, andiamo. Ma lo sta facendo soffrire già a Natalino. Come mi senti? Sono lontano, mi dà il microfono. Che lo sto schiacciando, il PTT col piede. Ah, c'è tutti gli altri, sento bene. A voglia, è forse il muro. Andiamo, vai, andiamo. E te lo sto dicendo che è una bestia questo microfono. Da lontano, cazzo, più va, più lontano sei e più amplifica, buzzinoso. Se accendo il televisore lo metto basso basso, tu lo senti forte. E ne penso che agisce bene, agisce. Deve essere che la capsula è buona. E allora? Sono MB4, ma è tremendo, cazzo. Sì, ma l'hai truccato, ma è bravissimo, è tremendo, l'hai truccato tu. E beh, non è normale, no? Vedi bene, se non è normale, è così. Ma sempre la capsula piccolina, cioè. Sì, la capsula piccola c'è. Ma l'originale? Oh, cosa originale? Benissimo, è più forte, e per quello funziona più bene la tigrido. Gli ha messo la capsula di citofono, gli ha fatto gli ha tagliato la resistenza, è vero la tagliata? No, gli ho fatto un ponte, gli ho fatto, non gli ha tagliato la resistenza. C'ho qua fermo un MC60, c'ho anche un, come si chiama, un Turner più 3, che non me ne posso usare, se no niente anch'io abbandonati. Sì, ma il ponte non è fatto dove c'è la resistenza. E tra un condensatore e un cosolo, e un altro, allora non mi rammento come sta di qua. L'ho fatto anche io le MB4 per lavoro, ma non le ho cambiato la capsula perché andava bene con quello e l'ho cambiato. E comunque questo. Ci sono bene, fatelo conto. E sono seduto nella sedia. Natali, sta facendo tutta scariche. E non stavo premendo bene, vuol dire. Perché sto premendo col piede, capito? Urubucca, usa le mani, no? No, che mi ho messo le gambe alzate, capito? Per passarmi i cedulori. È per quello che sono lontano. Ah, ho capito. Questo è il Royce è sempre una bomba, Sì, beh, sono a parecchi bomi. Io sto usando l'MP4, però originale, come l'ho pagato, perché l'ho pagato con il presidente, è tutto originale, le spese di spedizione, la 250 più 30 euro di spese di spedizione, ho pagato. E vi siete sovramodulati con Salvatore, che è passato né uno né l'altro. Quindi come ti vedi? Ma sei alto, io già basso. Vabbè, tu sei più alto di me, di cose, il microfono. facciamo il telegiornale. Cosa stavi dicendo, Salvato, che non ti ho capito, perché poco fa Gianni si è sovramodulato e non siete passati né tu e né lui. Eravate incomprensibili. Aspetta, che ce l'ho tutto originale l'MP4, non gli ho fatto nulla io. Anzi, lo lascio così, lo lascio. E già va bene ugualmente, dai. Più basso esce. Sì, l'importante, se esce più basso, l'importante è che la voce sia chiara, perfetta. Sì. Ma se puoi dare un tocchettino in più. Non la giocare a deduccarlo, perché c'è un tocco da buio, se si rovina. Sì, infatti. Io gli ho tolto anche quell'affare che c'è nella capsule, quell'affare di ferro, ne l'ho tolto, l'ho riempito di cottone, il microfono, e poi ci ho messo la capsula. E sto modificato questo qui, capito? Anche io nell'altro l'avevo fatto quel lavoro, ci avevo messo l'ovata però. È pieno di buttoni, io raggio. No, io ce n'ho un'altra capsula che ho preso da un microfono, da una cornetta di un telefono. Ma ce l'ho una capsula di quelle. Sa se è più forte, boh. Quelle dei Sirio andavano bene. Ma che c'erano i grossi, erano? Io avevo comprato un Sirio per prendere la capsula, fatti un conto, al mercatino dell'usato, ho preso un Sirio, me l'ha fatto pagare 5 euro. Per pigliarmi la capsula solo, andavo il telefono si è girampato. Ma tu c'ho l'Intec 600, c'ho, che è attaccato all'899. Ma ti ho capito, che ho scelto? Ho detto che c'ho anche l'Intec 600, che è attaccato all'899. Ah. No, io ho avuto l'Intec FM500S, però il baracchino, non il microfono. Quello andava bene. No, questo lo coso, il microfono l'ho messo a posto, tutto quanto e funziona benissimo, funziona. E c'ha l'eco anche, c'ha. Messo a posto, funziona che è un amore, funziona. Va bene allora, aspetta un attimino che mi attacco la solfa. Stai fischiando, eh. Oh signor, adesso mi ha avvicinato il microfono, lo vedi? Ce l'ho vicino. Si sente che ce l'hai vicino? Me l'ho messo sopra le gambe qua e sto schiacciando col dito. Andare. Oh, io schiaccia, bubu, non se ne può più. Andai a cavatura patente speciale, Dorra. Si chiama N, come November, che vuol dire novizio. Voglio dare la domanda alle poste per mandarla a Cagliari, a dare esame. Non l'ha già fatto. Vada una fanguala. Neanche io non ho fatto nulla lo stesso. E non ne farò. Anche adesso mi ho tolto la patente speciale, tornami. Si chiama patente di tipo N e puoi usare le V e le U, però le HF no. Sì, vuoi rimanere tutti commenti e non me la fate più nulla. E fai bene, tanto, per quel che vale. Infatti non pago manco un logo da Ed, cosa anda a fare. E infatti, poi se ne sono andati da anch'io, non ho bisogno più, c'è un di so. No, non stanno facendo più nulla, no, ma avevo detto male che non stanno facendo più nulla. Guarda a me, capa, questo come fa, questa è una bomba. Ma se scende tutto un po' male. Male sto scendo. Natali, come arrivo lì? No, adesso si è uscito bene, il primo passaggio si è uscito male. Perché era troppo forte il microfono, qua. Adesso provo a alzarlo, così va male e così va meglio, così. Sì, così già è chiara, già va bene. cava cava, questo qui è un mostriciattolo. Mi ha te che è un mostriciattolo, e per anche lui. Hola, hola, hola, hola. Adesso secondo come va mi vendo il Turner e il coso, l'MC60, cosa me ne faccio? Che non ha giù più. Ma dopo mai te ne pinti, dopo te ne pinti, magari ti capita la parica che le ho per attaccare e non ce l'hai più. Oh, non ne piglio più Kenwood, assolutamente. Guarda vabbè, come esce adesso? Cosa Salvatore? Aspetta, come sta uscendo adesso? Bene? Sì. Niente che sto usando me. Eia, anda bene me, la devo essere a cui da me moglie, mi Lugani Morrugnendi. Dici, grande fracasso. Quanto ne hai visti? Eia. C'è propagazione, c'è. E parecchio di propagazione ce n'è. Io bisogna che ci si tisca Rosmet a vedere. Ehi. Non so cosa pigliarmi di Rosmetro. E cosa ho andato un po' per vedere anche, c'è che ti segui di Zendio. Non mi pare bene che pendille. Quello vecchio io, ZG, da KP1000, l'avevo pagato oltre 200 euro. Ma non serve a nulla, dici. Non serve a nulla quello lì. Quello che ti sto dicendo io è del coso, è professionale anche. Sai che costa un po' di linea? Ma quello all'incrociato non mi piace. Quale stai dicendo tu? Che non mi ricordo il nome, come si chiama. Quello all'incrociato non mi piace, mi piacciono quelli con gli strumenti separati. Ma tu li vuoi con gli strumenti separati? E io dove con lo strumento incrociato. Beh, vabbè. Adesso vedrò. C'è un 102, mi pare, quello che usavo in macchina, attacco quello a vedere. Perché non ti sta funzionando bene? No, mi va solo fare la scala. Ma non è questione di stazionare, perché io gli apparecchi che misurano anche stazionare, li ho misurati solo un euro, quindi non è questione di antenna. Allora sei ballato, c'è. Si è sballato lo strumento. Cappa, io boh, lo sento strano attore, tu basta lì. Eoia, è un po' barattolosa la radio mi sembra. No, sta andando e andando fuori frequenza, sempre di più. E boh, io non me ne sono accorto, già non sto seguendo tanto, perché no, perché sono così, capito? La sequenza di lui sempre, è normale che non è che hai valuta. Ha rimesso attorno all'MP4. E adesso va bene. Deve essere che è troppo di coso. Poi la batteria ce ne andelli. Si sentiva e poi se ne andava come fuori frequenza, ti confondeva la radio, proprio non si capiva bene. Deve essere che se ne sta andando la batteria, blu. Ma che ne saci? Era troppo forte di volume. Ma era troppo forte di volume. No, io ho provato col volume, l'alzate e cose, sempre così era. Era strano. Infatti prima andava bene, e poi piano piano se ne è sceso e ha cominciato a andare fuori frequenza. Che non l'ho tratto. Che microfono è? Mintec 600. Ah, Mintec. Lo fermo. E vado giù sull'MP4 che è buono. L'MP4 è chiaro, come la radio è chiara. E infatti, tratto Gilso. È l'unico che funziona bene. E infatti. Che questo cacchio di Rosmetro che sta rompendo, perché poi non capisci se è quello o se è dall'antenna, speriamo non sia dall'antenna. Io c'ho quello della ZG che c'ha con gli strumenti incrociati, c'ho quello e funziona benissimo. so che ti ha giocato tre per l'armadio, fa che troppo manno. Anche questo prima di sfasciarsi funziona fa benissimo, poi ha cominciato a dare i numeri, perché già anche, come si chiama, per regolare le stazionarie, però anche senza usare, se lo metti in off, spento, regola lo stesso e non dovrebbe farlo, capito? Allora sei sfasciato, sì. Se regola lo stesso sei fasciato. Beh, se non premo il tasto per mettere l'accordatore, deve regolare. Le due manopole non devono regolare, invece regolano lo stesso. Fatti così. No, io non c'ho mica, c'ho questa della Fayette modello Mark 2 e quando voglio attacco quello che è piccolino e la stazionaria me le misura lo stesso, mi dice a zero, ma così muovi. Ma infatti con quell'antenna non si muove, ma con questo si muoveva, era 1 e 1 massimo, nel cavaliato era 1 e 1, adesso grazie arriva a 1 e 6, 1 e 7, quasi 2. Una cosa in quell'altro è che con l'affare, perché già con l'accordatore mi segna 1 e 2. No, l'accordatore non lo devi usare, se non hai il stazionario non lo devi usare l'accordatore. Se usi l'accordatore, è peggio. No, là nell'altra antenna, uso l'accordatore, mi segna 1 e 2, mi segna. Già me lo dice, 1 e 1, 1 e 2 ti segna. Ho detto che devo mangiare, dai, vi ascolto comunque. Già siamo qua. Ora la radio questa com'è? Sembra tutta così. Come così? Cosa vuol dire? Non parlare troppo vicino, come che sei vicino alla radio, al microfono. Infatti sono vicino, guarda così. Ecco, ma si scendeva. Allora sembrava tutto Pappa gappa. Ola. E cosa 1 e 2? Che pagare. Andave, già è buona. In sale si usano molto usate, capito? Perché questa radio ha i dati regolabili. Infatti, alla giuvita ci sta vedendo di più a un microfono e esce tutto quanto male. Infatti, buro bruciando esce. Se stai fischiando o se stai buffando. Sto buffando. Oggi esce dove è, chiaro. Aspetta. No, il ballato Roosevelt non c'è da fare. Ti regola tutto male, casino. Carnero, io neanche attaccato, non laggio di cose. Oh, vabbè che c'è nell'apparecchio anche Rosmetro, quindi. Io adesso sono solo il stazionario, qua. Adesso sono a zero, non si può fare a meno. Certo, se è vero, c'è un davvezzino al microfono. No, ma è fasciato, dai, è rotto, perché non deve funzionare così. Se io metto la regolazione per metterlo sullo scala, praticamente deve andare dalla parte, non dalla parte delle stazionarie, ma dalla parte dove ci sono le vasche, no, deve scendere a fanno scala, poi lo alzi di di una bacchetta e ti scegli le stazionali giuste, invece si muovono le stazionali, quando tu vai a regolare il rosmetro si muove quello delle stazionali. È andato in tilt. Sì. Magari è ossidato, bisogna mettere un po' di CRC. C'è un'altra persona insieme a te. Avanti, c'è che voleva entrare. Moretti. Sì, ha un altro. Uno che sta venendo dall'Australia. Chi è? Tonino. Fare dritto a una bambullana. Ah, Tony, fare dritto a una bambullana. Così mi piace, va bene così. Ma tu lo capisci. Tony, sei incomprensibile. Che appare che stai usando, Tony? Poi, va bene così, ho passato, dai, che era fuorco. Ah, era molta trombetta. Non era la trombetta, sono stato un certo baracchino e lo sciune. Vabbè, buonasera, mica sei fuori frequenza. Deve essere l'FM, tu lì secondo me. Cos'è FM? Faccio mai l'FM. Adesso va bene. Era spostato un pochettino il clarifer. In FM? No, in M era spostato di qualche decima. Se si sentiva strano come se fosse fuori frequenza. Ciao Fra. Buonasera ragazzi. Ciao Franco, come mi ascolti così Franco? Adesso bene, può fare i fuori di un pochino, dai. Andata bene, vela. Propagazione c'è? Io ci sono, altro voi, buonasera comunque. Ciao Tony. Andiamo bene, andiamo. Non ce ne può più, no. Oh Franco, che sono sì, tu hai detto? Sacro cuore. Hai la frusta, giusto? Non ho capito. Come antenna, c'hai la chiama a pesca? Sì, sempre nella finestra, dai. L'ho vista, dice mia sorella. Dov'è? Di fronte a me? No, proprio nella via centrale, dai. Ah, ho capito. No, ma la conosco, di vista più veramente ci conosciamo tutti. No, ha comprato da poco lì, è da abitare, diciamo, marzo, dai, mini marzo. Ho capito. Va bene, dai. Un'equilina nuova abbiamo. Calma. Andrà bene, Ida. Va bene, pensiamo così con la testa. Così. L'ho provata lì sull'avanzale ed è rimasta lì. Perché sul tetto bisogna fare un casino per metterle, bisogna togliere le tegole e poi uscire fuori. Ci vuole prendere da fare, lo fa, vai, se lo fa, la cosa per tutto, e tu non ci fece più. Aspetta, no, c'è proprio là, ho detto già, cosa mi racconti. Non ho capito. Ho detto Gianni, cosa mi racconti? Ha detto che ti racconta le barzellette. È sparito, Gianni. E io? Aspetta, Ricciardo, cosa gli racconti? Io devo raccontare, è niente da raccontare, è solite cose. Solite cose, dai. Lo so che io faccio molto l'ascoltore, faccio. Noi che grandi hai? Io faccio tutto. Comunque, anche se basta l'antenna, vi è arrivata la bomba a tutti, l'attore, te e Gianni, proprio la bomba. A me arriva abbastanza bene, per quello fra non c'è problema. No, anche io non ho problemi, quasi con nessuno qua là in zona. Vabbè, io sono fuori zona. Sì, però vuol dire che siamo favorevoli allora. Ma io vedo la zona di Gianni per esempio da qua. È già in alto, c'è una bella posizione Gianni. Ma io infatti abito anche la zona alta, dove sono io. Quindi vedo anche le case, capito? Guardate più avanti di lui. Torino in basso, lascia le zone libere, capito? Cosa? Anche Tore arriva fortissimo, dov'è Tore? Dove sei Tore? Vicino alla bretella. Arrivi fortissimo, arrivi. Anche tu c'hai un'antenna costruita, autocostruita? Sì, ci sto usando quella. È 5 ottavi o più piccola? 5 ottavi. È una canna a pesca lunga, tutta ben fatta. Sì, siccome la mia, dentro o fuori è, diciamo, l'antenna, l'hai inserita all'interno o è attaccata fuori? Sul tetto, con un palo di 3 metri. Aspetta, Tore. Vedi? Io l'antenna tua la vedo quando passo. passo un certo qual posto che sono obbligato a scendere lì quella zona e vedo la terra tua. A me quella infranco mi sembra molto più alta della tua, eh. Ma in questi giorni sarà un po' difficile passare quella strada lì. Vabbè, sono già dei lavori, giustamente, perché fa schifo la spazza. Senza fare dubbio. Io mi sono quella infranco e pazzesco, è altissima, la tua non è così. Quella nera, sto dicendo, la canale pesca è quella nera. Cernina ce l'ha anche Franco, eh. Ma da me c'è un tubo in PVC, un pezzo da 2 metri, che rimane, arriva a 2 metri, fanno muoversi troppo. Ma tu pensa che tu hai detto che c'è anche un palo a 2-3 metri, lui ce l'ha appoggiato nel terrazzo, perché l'ho vista come è messa, è un bel più alta, su qualche palazzo venite forse. Sì, fa appena appena la grondaia, il palazzo è più alto perché diciamo il tetto è più alto, dai, la falda è più alta. Sì, ma si vede in facciata, fra, io passando per caso che forse già lì a votare la mia sorella, ho visto la tetta, ma la sua si vede lo stesso di Tore, però la tua mi sa molto più lunga. Vedi, il mio sono io, che già c'è una bella antenna, io ho una piccola 50 anni di rapeno, con radiali per i piccolini, per i caricati, per i grossi. Aspetta, rispondo anche a Gianni che avete parlato assieme. Sì, si vede dalla strada, o perlomeno dalla via si vede, non proprio dalla strada principale, la via non si vede. Allora, la canna, la mia era in origine 8 metri, in origine, però l'ultimo pezzo l'ho tolto, quindi sarà 7 metri e qualcosa, dai. Ma io ho detto che più misero sono io, ho detto che a Gianni c'è una bella antenna, io ho un avveno, un 50 anni, con le radiali piccolissime. Sì, che le conosco, ma vanno bene lì. Avanti Gianni. Gianni. Saltito veloce Gianni. Se non mi sentivo detto di fare i gosi, stavo attaccando la colonia. Sì, ho detto che si vede dalla via. Ah, si vede? Ma io non l'ho mai visto, ho guardato, forse non ho capito bene il punto. Non ho capito forse bene il punto. Vabbè, ci guarderò meglio, vai. Mentre tu ci parcheggiavi anche su questa via, se non sbaglio, beh. Sì, ma tu rimani fuori in te, non rimani dalla via, non è che lo vedi, secondo me sì, capito? Quando sopra il palazzo, poi ti giri a fianco, lo vedi. Io mi sto scendendo da sopra in giù, perché ho messo la macchina da sopra, l'ho messo. Ah, ecco. Tore. Tore. Un attimino, ragazzi, vi devo lasciare, che sto andando a prendere la signora. Ci risentiamo dopo, se ci siete ancora. Ok, d'accordo. Dai, ora questo è un momentaneo, ci sentiamo dopo, avanti, ciao. Ciao Tore, un abbraccio, da parte mia, alla prossima. E tu Gianni, se vedi. Ma oggi Gianni è troppo lento oggi. Attaccata è la colonnina, Gianni. Deve trovare buco. Adesso cosa è cambiato il segnale un po'? Ciao Tore. Tony. Prova. Guarda un po'. 1, 2, 3, prova. Stazionale non ne ho. Ma io con questo segnale lo vedo più o meno quasi identico, poca roba si è variato. Ma non mai, prova a attenuarmi a vedere. Prova adesso, fai 2 passaggi. Portami, non so, a 9 e poi provo a abbassare. Adesso provo a abbassare. Ecco, così sono 4 watt e mezzo. Sì, c'è la variazione a muta. Cioè, ma quando c'è il segnale è più alto non di meno, dai. Cappa. Senta che avevo tutto aperto, capito? Cappa. Sto provando un po' tutto, dai, ti faccio scaldare un po' tutto. Almeno carichiamo quei condensatori. Cappa. Gianni. Va bene, non mi sente. Sempre vedi cosa, Stiamo usando lo stesso microfono, anche tu stai usando lo sciure. Cappa, si sente? Un po' effetto vuoto, però. Non è che hai svuotato la capsula, no? Assolutamente non ho toccato niente, il tuo originale. L'ho messa dentro le bombe e lo sciure, il collo non glielo ho alzato, perché se no si sbatte in base al piano, mi sente. O forse stai parlando da un bel lontano. Sì, quello sì. Tutto qua sono un gatto. Allora è quello, dai. Aspetta, guarda adesso, fra. Questo passaggio 1, 2, 3. ancora più forte. Si capisce la radio? Sì, si capisce sempre, però per noi vicino è meglio più bassa. Quindi se parla così, voce bassa, mi senti meglio? No, abbassare un po' l'amplificazione. Così va bene, ho abbassato. Ancora per me. Ecco, uno, due, tre, prova. Così va meglio, invece la mia va bene o devo abbassare anch'io, aumentare? No, la tua è abbastanza chiara, bella, squillante. Non c'è problemi, lascia così. Sul puntello, dai, come si dice. Vabbè, sta entrando qualcuno? Beh, ci sono, stavo controllando il rumore che non mi sta andando bene. Poi l'antenna, il rumore che sta andando male. L'antenna è nuova, ragazza. Ma deve essere il rumore, non sai perché qua. Perché anche quando non li metto l'accordatore, se giri le manopole che ci sono al fianco, si muove tutto dalle stazionali, non dovrebbe farlo se non è inserito l'accordatore. Vecchi sono, anche il mio non è che funzioni bene, ogni tanto me le segni, allora devo un po' togliere il PL, rimetto il PL, e, diciamo le spezzoni, dai, e poi si riprende, roba vecchia. Ma il mio non è tanto vecchio, perché l'ho cambiato da poco, è il ZG HP1000. Quindi è buono, HP, no, io ho l'HP1000, come si chiama, no, TM1000 è mio. Ma anche l'altro mi aveva fatto lo stesso difetto, lo sai. Purtroppo, poi è una cosa strana, parlando si abbassano le stazionali, io non sono in pista. Dipende anche io come regolo faccio l'accordatura, diciamo, dai. A volte tende addirittura a passare, a volte a aumentare, dipende come fai la regolazione. Allora a volte la faccio fischiando e poi addirittura rimane ferma. Ma io la faccio in silenzio, la metto con lo scala e poi metto l'altra scala. Metto la scala a 100, a 10, dipende. Sicuramente non è un problema d'antenna, dai. Problema così, un po' elettrico. Qualche umidità, non è niente, comunque sta facendo benissimo. Un po' di alternata, sento. Alternata? Ma quello lì perché c'è l'alimentatore. Oppure la ventola, non lo so, sento un rumore di fondo, Chiedo conferma anche a Tonino. Aspetta, ti ho parlato in due. Dimmi, Tonino. Ho detto Gianni, l'avevo sempre avuto l'alternata. Ah, sì. Sì, Gianni, c'è il ventilatore vicino e amplifica tutto, anche il rumore del coso dell'alimentatore, no? Quindi no? Guarda adesso a vedere. Adesso no, vuoi buttare l'alimentatore e abbassare il microfono? L'alimentatore, perché stavo usando l'altro apparecchio, ho dovuto attaccare l'alimentatore, adesso sto usando il cane e se l'ho staccato. Io un po' la sento ancora, Problema, aspetta. Sì, l'accetto anch'io. Basta, ma si sente. Io sono distante, lo metto il telefono, quello non ne fa rumore. Questo è un 12 ampere, non è proprio così bene, ragazzi. Io sto usando quello vecchio, lo stesso, 10 ampere. A volte uso anche quelli switch, però sono fermi, dai. Anche io ho quelle switch, ho quelle 25 ampere, però. Ho visto che questo vecchio ce la fa, è vedo pesante, allora... Gli ha messo una ventolina sopra perché d'estate è un po' scaldato, eh. Non lì c'è il dissipatore in alluminio, vedo un freddo, grazie a Dio, ho anche io la ventolina, ma non è piazza neanche perché tanto la scalda. Stai un po' innescando, appena. Secondo me, faccio saturare. Non lo so, poco fa sentivo appena l'innesco, appena. Comunque io sto usando, non so se lo conosci, la Faiente 2400 FM. Ma pochi ne conosco io parecchi. Quindi, bravo, c'è Marcolino Condor, quello si ricorda tutte le sigle, guarda, qualsiasi apparecchio. È un cranietto, Samurai. Sì, io sto usando il Samurai adesso, sì. Ok, allora, io ho uguale identico al tuo, però mi manca soltanto il frequenzimetro. Il resto è uguale, come canale e tutto. Questo c'ha sei bande. A, B, C, D, E, F. Sì. Sì, è il mio, sì, infatti. E poi ho l'altro, il Super Galaxy, quello che uso una volta in macchina. È uguale, però esce con più watt, il doppio di questo. Dai, questo esce con 10 in origine quello che ci convinti. Sì, io non, qual è? Quello cromato ce l'hai. Come? È cromato la mascherina. Sì, sì, tutti e due sono, come dice, uguali. Questo però ha i LED verdi, invece quello del Galaxy Super Galaxy sono un po' più su giallino. Sì, ce l'avevo uguale io, quando ho affittato, ho affittato 10 mesi proprio perché mi stava giusto a fare casa che avevo comprato a Sassari. E quindi sì, come l'ha fatto? Non mi ricordo, ti giuro, fra chi l'ho dato, chi l'ho venduto, non mi ricordo. Gianni, hai risolto? No, no, sempre, c'è sempre le stazionali a 1,5, quasi a 2, quasi a 2 sono. Non capisco, deve essere l'alimentatore però tu, perché se io non uso l'accordatore, accorda lo stesso con le manopole, capito? Quindi non lo deve fare quello, se tu non usi l'accordatore le manopole non vanno a funzionare più. Invece così funziona lo stesso, quindi non è una questione di antenna, ma è una questione di alimentazione, di rosmetro. Aspetta Gianni, stai usando il Galaxy, giusto? Sì, già. Ecco, scommetto che sia chiamaretta, media minima potenza. Quando scende di potenza è normale che scendano anche le stazionarie, ecco, così sono al minimo 1 e 2 di stazionarie. Ma come radio adesso è pronta però già. Sarebbe quasi 2, meglio arrivare minimo potenza che arrivare massima potenza e scadere sui finali, giusto fra? Aspetta, ma il mio si muove. No, il mio, se diciamo escludo l'accordatore col pulsante, le manopole non fanno nessun movimento sullo smitter, dai. Se invece schiaccio, allora posso fare la regolazione. Ecco, vedi, invece io lo fa lo stesso, capito? E allora è rimasto, aspetta che devo accordare. È rimasto bloccato il tasto allora, il tastino? No, il tasto va, lo sento anche adesso va. No. E poi accorda sino a 1,1,2, dai. Però accordandola. Franco, si è notato? C'è stato qualche passaggio di Gianni che non si sentiva la serrata. No, diciamo che quando ha schiacciato è aumentata, secondo cosa ha toccato è aumentata l'alternata. Qualche passaggio, proprio qualche secondo. Deve essere da poco, metto sicuramente, ci stanno problemi. Aspetta, va, lo stacco. Non è la minima cosa, dai, non è che è da fastidio. No, ma provo a toglierlo a vedere se fa lo stesso difetto. Sì, intanto se l'antenna è accordata, non hai bisogno. Io sto cercando un piccolo rosmetro che non è mai invece. Ce l'avevo, tutto l'altro qua. Mi sono disfatto parecchia roba che era un casino qua. Sembra una centrale elettrica qua. Io quello che avevo diciamo in macchina tanti anni fa, non so neanche che fine abbia fatto, era piccolino, segnava solo stazionarie e basta, un tastino per spostarlo e la manopolina per regolare il fondo scala, però no, non mi ricordo neanche dove cavolo ce l'ho messo, non l'ho più visto in circolazione. Cosa mi è rimasto? L'esterno soltanto puntato le antenne, le tre uscite e basta. Poi niente, un parchino di traccati, due mediatori, con le esterne, no, microfoni, qualcosa di decido anch'io. Avanti Gianni, fai la prova. Guarda a vedere come sta andando. Fai il bianco però. Quasi zero. Allora, cos'è Rosbetto? C'è qualche cosa in corto? Guarda come ce l'ha. Però va bene, vai, una pulitina, una soffiatina. Poi mai gli metti uno spray per contatti. L'ho già aperto una volta, lasciami lì. L'ho già aperto per lo stesso motivo un'altra volta. Proprio la caldatura, era così. Oh già. Oh. Faglielo vedere un po' pochi. Cosa? Faglielo vedere un po' pochi. Non è quello, no. di sui, anche se è l'ultimo che ho comprato, perché non ne avevo prima. E lo faceva anche a me qualche difetto di coso, Gianni. Poi quando scaldava forse era aumentata, non lo so, perché quindi cosa ho pensato per la fine quando mi sono sbagliato da tutti a tutti. Aspetta, faccio l'ultima prova, cambio il capo. Ehi, prova, tutto può essere. Prova a muovere i cavi, così noi vediamo se ci sono variazioni. Niente, però io mi sto facendo dei pezzi di polpa di pollo al forno. Ci ho messo 4-5 rami di farina, perché c'è la pianta profumo, c'è una forbice tornata, tanto per cambiare, mangiare un po' di roba asciutta, diciamo leggera. A te già piace cucinare, dai. Basta, quando poi non sai cosa fare, allora fai tutto a casa. Ieri mi sono fatto le costolette di agnello a sugo, buonissime, la verità. Adesso a proposito di costolette di agnello, ho chiesto a un collega che ha aperto un circolo lì al monte, quando fai pieni di agnello e tocchiamami che ti faccio visita. Perché? Neanche mi piace non bene il sugo. Lo so, c'è la buona, è buona. Va bene, dai, cosa ci puoi fare? Ora bisogna cambiare comunque il menù. Ora c'è cosa mangiare, sempre devi pensare. Oh. Ah, ti posso raccontare una storia da come tutto mi succede. Dimmi. Niente, io su Facebook c'è un post a Fresco, come cavolo si chiama, comunque ho messo qualcosa in vendita. Quando mia sorella ha venduto la casa in campagna, che si è preso la vicino della benzina, che si è comprata una casa lì, perché in campagna era sempre sola, quindi distante, benzina, quello per l'altro. Mi ha regalato la pompa che c'era lì, nelle aquelle, un 5 cavalli 380, l'ho tutta bella pulita, levigata, tutto quanto, poi si è andato con un viso, non so se lo conosci, che ha giusto le pompe, Paolo, penso che conviene bene, sistemata meglio il cavo, eccetera, la perna, ho messo il massimo, tutto perfetto, l'ho messo in vendita, l'ho verniciata pure, tutto bella pulita, nuova, è tornata nuova, mi contatta questo qui, che gli interessava, poi dice ti faccio parlare con un amico mio che la prendiamo mezza a fare, ok vabbè, questo qua lavora anche a Sassere, e mi chiama questo qui che mi trova fuori, e va, non mi ricordo, cinico, ecco qua. La vede mi fa, ma io pensavo che non di quelle pompe, sono bene, cioè quelle lunghe, eccetera, eccetera, cioè, non ti interessa, questo no, cioè, no, aspetta, guarda, io ho un gruppo a 6 kW, va bene, perché mia sorella mi fa 6 kW a contatore, tutto attaccato, aveva un pozzetto, frigorifero, televisore, sempre accesi, eppure, ha sempre funzionato bene. Va bene, te lo prendo, no, non c'è un problema, ok. Dice, ti faccio sapere stasera o domani mattina, niente, la sera nulla, di domani mattina niente, mi contattano altre persone, gli interessava la pompa, tutto già venduta. E niente, mi chiama poi invece, di domani sera alle 7:30 mi fa, non mi va bene, te lo torno indietro, io ho cercato anche di cambiare il capo, hai cambiato il capo, ma tu sei tutto pazzo. Poi l'ho messo in matice, nuovo, un litro d'acqua, quello e quell'altro, era bello che secco, tutto quanto, tu mi apri la pompa, però non ci dico ragazzino, non ti ho messo la pistola in fronte, l'hai voluta e io non posso farci niente, dimmi che posso fare, te la rimetto in vendita, quando ti do il numero di telefono a te, il tuo, no? Così ti contatta e glielo dai, ho fatto bene. Cioè, gli hai fatto anche una cortesia, dai. Ecco, poi avevo messo, mi si è piaciuta con quelle cose lì, quindi automaticamente cosa mi stai chiedendo? E io, è stato roba in 5-6 minuti, continuo guardando, eccetera, eccetera, indeciso, altro no, dopo sono stato andato via, sono stato la sera qua. Niente, ha preso e poi mi va a contattare dopo un giorno e mezzo per dire, ragazzi, che il suo gruppo non ce l'ha fatto, non dire fesserie, perché il gruppo 6 kW per una bomba cosa sono? 1000-1500 watt. Da 5 cavalli, la meraviglia. Viene a fare i buchi, venevo, 6 kW. Ha detto, a che tu c'hai un piccolo gruppetto da mezzo kilowatt. Dice, me l'ho confermato che era 6 kW. Ah, ti hanno confermato, non è, è stato trovare quanti kilowatt c'ha. Uffa, io ho detto, caro mio, non posso farti niente. Cosa faccio, cosa fai? diciamo, non so se compare quello che mi ha contattato per prima, quanto fai come voi, infatti quanto fai lo devo chiamare e gli dico perché io questo lo vedo perché vado in negozio a comprare roba e dico che è troppo, guarda, mi dispiace, ma non si comporta così come i ragazzini, guarda. Vediamo se c'è Gianni ha cambiato il cavo, Gianni, no, che ci sta parlando con le cape, no, poco fa ho sentito un bip, forse stava provando, vediamo un po', Gianni, niente ancora. È un casino queste vendite online, dai, a volte ti va bene, a volte ti va meno bene. Gianni, hai parlato sopra Franco. Gianni? Ha detto a te che sto provando, cioè, arriva più fortemente e ti sorpassa Franco. Questa sarà 50 metri più in alto di me, l'antenna bella, la mia sì, un'antenna così. E poi io sono dritto proprio, infatti io levo forse poco scala adesso. No, no, vi ascolto, io vi ascolto bene entrambi, Certo, se Gianni è più vicino, quindi arriva un po' più forte. Ecco, no, io sono più lontano, e poi sono anche in alto, proprio dalla casa di Gianni, cioè, prima di Gianni, dopo Gianni, cioè, perché sono più in alto ancora quelli lì, quelle vedo, due tiro le vedo, un po' più di Gianni, però, se avessi l'antenna, io metterei sulla punta dell'antenna, oppure sopra qua, la metterò ci fa a fianco, allora vedrei anche l'antenna di Gianni. Figurati, mi poco fa stava, andiamo innescando, altri microfoni c'hai da provare? Io? La cappa. Allora niente, allora ti ripeto, il casino qua è sa cos'è, che io ho fatto il microfono talmente veloce che ho tutto aperto e quindi forse è stata una sintoma con l'altra. E che a volte ho difficoltà anche qua, adesso come due giorni. Aspetta che stacco questo microfono dentro, aspetta. No, mi di nuovo male stai uscendo, però prova a cambiarne un altro. Come mi ascolti così? E così va meglio, ti ascolto perfettamente. Poco fa avevo difficoltà a capire certe parole, capito? Eh no, perché niente, le saldature dovevo praticamente farle bene, non c'ho il mal tempo fra, sono sempre cambiato una parte all'altra, fare favori qua, favori là, quindi sto usando un microfono del Midland originale, che questo gliel'ho adattato, diciamo, non è il massimo, però almeno è chiara, quindi, invece lì poco fa sentivo a volte un esco strano, tipo borbottata un po' la voce, e perdevo molte parole, perdevo. Perché non ho spinotto, mi è uscito le saldature un pochettino grossolane e quasi quasi si sfiorano con l'altra, secondo come muovevo lo spinotto, ho spostato il baracchino leggermente e andava in esco, capito? Sentivo anche il fischio. Dai, non l'ha controllata, dai. Gianni, ti cancellavo questo aspettone. Capita, e non ti appena dopo. No, via a casa. Gianni. Oia. No, anche con questo c'è la stessa roba, lo sai. Dove c'è l'antenna allora? O è qualche capo l'antenna, vai. Adesso controllo. Tu c'hai una centrale elettrica là. E vabbè, là. Oh Jack, tu come hai messo questo microfono di famiglia? Non va bene questo. Questo si sente meglio dell'altro. Ehi, meglio, cazzo, non dire meglio. Quello io voglio pure. Attento, è un microfono a Drizzi. Ma è presente, dai. È un microfono normale, però si sente bene. Capo. Comunque tu c'hai troppi cavi, Gianni. Troppi. Ma non c'entra nulla, quella è sempre stata bella stazione, già entra lì. I cavi ci vogliono perché ci sono più appalichi, quindi è normale che ci curi. Sì, io sono sicuro che se tu metti l'antenna diretta al baracchino non è questo problema. Proviamo anche quella. Gianni, prova a fare quella prova. Se tu vedi che noi c'è il mobile tutto pieno di baracchini, spensioni, capo, alimentatori, non si comprende nulla. Ogni volta lo devi manovrare, un casino. Comunque dà l'antenna e quindi ovviamente io sono sicuro che c'è qualcosa lì che non va. Se lui mette l'antenna diretta al baracchino ha risolto tutti i problemi. Sì, ma guarda, non costa niente. Se poi c'è un'alternata ancora così con antenna diretta, allora bisogna andare sull'alimentatore. Hola, ci vediamo, mettiamo se vuoi. Prova la stazionaria. Ne va sempre due. No, aspetta, quindi sono arrivate. Sette. Calibrate. Allora, con la scala. Sei più forte a insegnare, come mai? Più forte? più basso adesso? Roger, perché? Allora, tu sei fotoscala, quando io faccio praticamente, ti porto, come vogliamo chiamarlo, grigio locale, mid e poi okay, no, X. Allora, quando io passo il tronto ti porto a Santiago 9, invece sì, adesso Santiago 7, perché tu arrivi già a fotoscala, quando passo con lui io mi regolo, arrivi a Santiago 9 spaccato, invece Santiago 7 si è passato. Perché aveva passato il polo senza volerlo, guarda adesso, 1, 2, 3 prova. Sempre sente, fra, non so a te come ti arriva, eh? Io non ho fatto la prova, prima e dopo, per me arriva sempre forte, è oltre 9.30. Sì, anch'io se sollevo il coso, lo metto in X, praticamente lo arriva forte qua. Però io me ne accorgo tanto e mi oriento in base allo spinter, quando faccio questo vedi quanto arriva, capito? E poi il mio, l'RPG, il mio non è a scatti, io lo posso portare anche a zero, capito? Sì, comunque tu arrivi quasi a 7 con 7, con i picchi positivi. Mentre lui invece è proprio 7, che lui è sempre 9, era 9, 9, 2, capito? K. Non lo so se ha cambiato altre cose, apparato, E tu questi 9.20, Franco, ti ho aperto tutto. Però con l'aiutino, No, vabbè, comunque, devi capire che tu c'è una frusta e ho visto anche l'antenna, sta arrivando anche forza per come è l'antenna tua, Mi sarebbe piaciuto provarla sul tetto, ma è un bel palo. Che paura che ci spezzi, non lo so, che crei problemi. In quelle zone il vento già ne tira, Ehi, di volte sai cosa faccio? Visto che ce l'ho tipo un reggicanna, no? La infilo dentro questo bicchiere, la tolgo e la appoggio all'albero che c'ho di fronte, a un fico invece la lascio in piano. Ma è quello di sopra, non ti dice nulla? No, l'importante è che non si affacci, se no qui c'è fotti di antenna a faccia. Diciamo che cammina parallela sulla sinistra, a lui gli rimane sempre a sinistra. Altrimenti gli chiedo se me la fa mettere sulla sua staffa. Forse anche meglio. No, io ripeto, sia soprattutto l'impianto di Colombo al messaggio dell'Europa. Ogni giorno ero lì, mattina e sera, poi passando, cazzo, guardo giù, poi ce ne sono un altro paio, quelle piccole per U e V, anche quelle sono tutte autocostruite. Già vanno bene allora. Ah, Gianni, che fine ha fatto? Non lo so. No, c'è troppa roba. Beh, io guarda, non l'avrei fatto come Gianni. Io praticamente niente, antenna, baracchina e basta, stai lì a fare quello, quell'altro, baracchino qua, baracchino là, stacca e stacca, prova qua. Potrei provare un baracchino, stacca, l'antenna centrale, avete baracchina, trovi il baracchino. Dopo lo so, mezz'ora, allora vuoi provare un'altra baracchina, sa che la sera mette all'altro, c'ha troppi passaggi in cavi. A me me ne entrano da sotto la finestra, entrano tre cavi, ho tre antenne, una la uso per la 27, l'altra, uso l'altra, poi sì, ci sono gli spezzoni, ho anche due accordatori, c'ho l'altro per le altre frequenze, l'HP201 e il TM1000, dai. E basta, poi un valvolare, però non è attaccato, lo accendo ogni tanto per scaldare le valvole e qualche alimentatore e basta. Sì, ma vedi, hai, diciamo, altre antenne che una per 27, una per 27 e le altre antenne che sono per altri apparati, diversa frequenza, però già diciamo tutto per la 27 e non si comprende nulla, c'è un po' di intrusica e avrei disfatto tutto, guarda. Ma non lo so, le piace magari avere tutto a disposizione e con un commutatorino cambi tutto. Gianni, ci sei? Esatto. E beh, cosa mi dici? E cosa devo dire? È sempre così, è 1.05. Stazionarie, non lo so che cosa sia successo qua. Non ne ha mai avuto così tante, 1.01 era, anche nei canali alti. 7.01, con cosa ho passato? Alternato, cioè tu io troppo, ti ho passato il colpo. Prima di bavi, sempre 9 qua, spaccato. E vabbè, se la gandola andata, se no da buio, che vendo tutto, se abbi la luce, non devo stare a mappare un capo con questi cosi, c'ho altre cose da fare. Ma non è che prima era attaccato che ne avevi più forte? No, non ce l'ho più, l'ho messo da parte, non ce l'ho più. Lo so che non ce l'hai più, se ero in ascolto in FM ieri sono 12. Cosa? Ero in ascolto, e tu che faccio di che importa. Ah. Boccia, io qui passo non ce l'ho mai visto. Perché tu sei uno degli unici che devi forti qua, Superare anche Antonio, ho fatto un conto. Già cambierà adesso come scalda l'antenna, si magari torna acqua. Perché l'acqua può entrare, a me non è l'acqua. Allora io tutto la giuntura che ho fatto per quando ho aperto l'antenna, ho messo un altro vulcanizzante tutte le giunture, che sta Dio, va bene. Le pile ho messo un po' di vaselina e poi ce la posso. Io l'ho messo il vulcanizzante e sopra anche il nastro, oltre il vulcanizzante. È un nastro che non si è staccato nemmeno col vento e cosa, non si è staccato, c'è già un bel po'. È un nastro buono che avevo preso da Fusaro, ma è di quello proprio che amalgama bene, che stringe, tutti e non si stacca. Io sto aspettando qualche giorno che carissimo amico mio, vecchio CP, che è libero e mi deve regalare la pantofola. E lì mi piazzo il cavo che ho RG213, che ne ho 27 litri, e me lo piazzo. Faccio ancora tutto le tre bubble arrotolato e appoggiato lì. Bel regalo, quanto fa uno? Penso che va meglio. E sinceramente metterò il palo di 9 metri, lo sto già dicendo, non mi frega niente, c'ho già il blitz e c'è il cemento armato, quindi adesso ce ne sono 6 metri. E li vedi tiranti allora? Beh, ne ho adesso già 5 tiranti, fate conto. Quando c'era quel vento l'antenna, l'Aveno, si pigiava, era un paro, Zenzaro, non si muoveva un millimetro. L'Aveno non è che sia un'antenna robustissima, però diciamo che robustissima, fa il suo sporco lavoro però, Sì, e poi non ho fatto una grinza quel vento che è passato qua, ma vento che se l'ha fatto tutto sotto la veranda, era un casino, Ma comunque, metterò il palo come si deve, e sui tiranti metterò una lenza, penso, perché sono materrato, c'è i tiranti, i radiali c'era in vetrolina, sono materrato. Metto la lenza su e giù perché non so mai qualche corna che si appoggia a rotta le palle. Ma a me non me l'ha mai rotti. Diciamo la cornacchia, cioè, sì, sono in vetroresina comunque, occhio che non siano sfibrati un po', sennò ti rovini le mani, se vedi che sono un po' rovinati ti conviene levigarli appena appena e li metti un po' di vernice sopra, sennò ti fai a beffa con la vetroresina. Sì, lo so, uso i guanti, il lattice e tra l'altro faccio la carta abrasiva che è fina fina e poi li faccio un po' di spray quello trasparente che ne ho 5 bombolette a voglia. Avanti già. Allora adesso mi ha piegato col vento il palo di cosa? Il palo d'acqua, il tubo d'acqua mi ha piegato. Immagina. A te? No, Alessio. Ah, io addirittura, non è così alta con il giovaneccio. E poi lui l'ha bigiata, se ne è accorto l'altro giorno, dice che c'è su giù e l'ho vista piegata. Ok, io ci vado spesso di quelle zone, giro una parte all'altra e dirò che ho visto l'antenna sua, la vedo sempre. Ma non è così alta. Se ti vedi più alta la tua. Sì, infatti non era alta, c'è anche tirato tutto. Non so come abbia fatto a piegare il tubo d'acqua. Ce l'ha piegato. Va bene dai, io guardo il forno che ho messo roba dentro, adesso vediamo un po'. E faccio pulizia, signori, vi saluto, grazie per il questo. Ciao Franco, ciao Gianni, buon proseguo, ci sentiamo alle prossime minute. Statevi bene, ciao ciao. Ciao ciao, ci sentiamo Tony, stavi bene. Avanti Franco. Allora, ciao Tonino, alle prossime minute, buona cucinata, come si dice, avanti già. Buona mangiata più che altro, sempre magneti. E perché tu non mangi, eh? Poco. Ok, dai, comunque sempre 115 le glicemie, non preoccuparti. Ciao ciao a tutti di nuovo, al sotto del finalino, ciao. Vabbè. Se poi ci prende una volta solo, sto scherzando. Avanti, fra. Allora, dai. Se non ci togliamo questi gusti, queste soddisfazioni con la roba buona e ricchita, guai, infatti stavo parlando poco fa, non ho voglia di mangiare i piedi di agnello, c'è un collega che ha preso un circolo qua al monte, gli ho detto, quando li fai avvisami che vengo a mangiarli. E dove l'ha aperto esattamente? Dovrebbe essere salendo dalla questura, no? A fianco ai giardini, dalla parte lì, c'è un parrucchiere. Sì, ho capito. Lì deve essere, l'altro giorno l'ha inaugurato, però io avevo un pranzo di pensionamento, quindi ho dovuto scegliere, sono andato là. Beh, potevo...